Uniformità e diversità sono i due concetti della mostra, no? Cioè quello che si dice che pian piano stiamo comunque nel mondo moderno andando verso una omologazione, che è una cosa molto interessante della modernità, no? E noi diciamo che nello stesso tempo abbiamo alle spalle un grosso patrimonio culturale. L'icona di Skin, che sono tutti questi colori che vediamo, rappresentano le varie culture e le storie del mondo, che sono un grande patrimonio di tutti noi. E in questo abbiamo cercato di far vedere con varie sfaccettature, no? Uno è il discorso di cui parlerà Albino Pozzi, del discorso degli architetti, che è un'anima della nazione, un altro discorso degli stili di vita che abbiamo cercato di far vedere, per far vedere quante sono le diversità e quanto a tutti noi possono servire queste diversità a livello di cultura, di tradizioni, il poeta, il regista, ma anche tutto il discorso poi dei materiali inserite nelle varie nazioni, nelle varie architetture. In che senso lei ha parlato di omologazione? Omologazione è una parola importante, no? Diciamo omologazione è il discorso di quello che, facciamo un caso, i nostri ragazzi li guardiamo a Tokyo, New York, Milano, utilizzando sempre più nella velocità degli scambi dei materiali simili, computer, telefonini, jeans, si assomigliano. Ma va benissimo perché è un discorso dell'attualità, del mondo moderno. No? Allora diciamo però, ok, c'è questo discorso, dall'altra parte c'è anche il discorso della grande tradizione, della grande cultura che c'è alle nostre spalle. Per quello abbiamo voluto dire, c'è il discorso uniformità, diversità e c'è questo gioco globale che ci porta avanti, parallelo, no? E questo è stato poi una delle anime di Skin della mostra.